Onora tuo padre e tua madre, appartiene al quarto comandamento, che dato per noi porta notizie da tormento. È stato l'ordine di un amore onnipotente, che ormai è svanito tra la gente, e tutte le nostre vecchie convinzioni oggi ci appaiono solo privazioni. Così si è perso e ucciso il rispetto a chi ci ha dato vita. In questo mondo ci giochiamo la partita. Pedine, noi esseri viventi, troppo stupidi o forse intelligenti. Poco a poco, fautori delle nostre debolezze, tra mille mutamenti erogatori di incertezze. Per chi come me ama i suoi genitori, per chi t'ha messo al mondo e dai problemi ti ha tirato fuori, per chi t'ha dato un nome, trasmesso il suo cognome, per chi ti fa star bene senza paragone. C'è chi rischia la sua vita per darti la vita, come mia madre, chi fa sacrifici tutta la vita come mio padre. Ho solo buone parole per chi continua nel suo duro compito di genitore. L'ossigeno e il motore mi fanno andare avanti, credendo ancora nell'amore. Vorrei essere anch'io un padre coraggioso, vorrei urlare a squarciagola che di mio figlio sono orgoglioso, vorrei dargli ogni giorno il consiglio più prezioso, vorrei, ma per ora resto silenzioso. So che il padre migliore del mondo vive in me, non posso ancora dimostrarlo, per questo cresco rime, un grosso grazie a loro se non hanno divorziato. Oggi l'amore è un lusso, anch'io ci sono cascato, grazie per avermi cresciuto insegnandomi veri valori, troppo severi no, semplicemente genitori. Onore il padre, la madre, il sole ed il funk, chi ti protegge dalle strade, chi ti dà il suo sound, chi ti cura la febbre, chi ti sgombra la mente. Da gennaio a dicembre sembra in cambio di niente. È da tempo che ho sentito il tuo calore dentro me. Sai che c'è, sai che c'è, c'è che mi rispecchio in te. E da quando son passato dal sentire all'ascoltare, rispetto il sole e il fan come un padre e una madre. Mi avete dato la vita, dato la forza e quello ammetto. Quando vi accostate al mio orecchio mi si gonfia il petto. Papà fan, tu che detti il ritmo delle giornate, le tue casse, i tuoi rullanti sono le mie carreggiate. Percorro con te la mia strada, tu mi accompagni ovunque io vada. Ma la forza dentro quest'anima, ma me l'ha data mamma, mamma soul, che mi curi dalle botte, che mi accompagni sempre a letto e che mi dai la buonanotte. Quante volte arrivo stremato e tu mi riempi di attenzioni. Papà fan, mamma soul, siete voi le mie emozioni. Siete voi le mie emozioni. Papà fan, mamma soul. Onore il padre, la madre, il sole ed il funk, chi ti protegge dalle strade, chi ti dà il suo sound, chi ti cura la febbre, chi ti sgombra la mente. Da gennaio a dicembre sembra in cambio di niente. Onore per i padri del funk, di questa cultura. Onore per le madri del soul, voci da paura. Onore per il funk, padre della musica autentica. Onore per il soul, madre della musica, dell'anima, dell'anima, dell'anima. E l'emozione della musica, io ne ricevo tante, incastro rime che fanno male veramente, come i consigli che ci danno per prepararci al peggio. Mano nella mano sul sentiero per il lungo viaggio, influenzato dai suoni afroamericani. Questa cultura mi tiene stretto tra le sue mani. Il soul è il sole nella mia vita, il funk il sale di ogni giornata. E se la musica è tradizione di famiglia, io sono Ness, autodidatta dalla Puglia. Non canto, la mia voce raglia, in questo mondo è solo una scintilla, ma sulla paglia. Onore il padre, la madre, il sole ed il funk, chi ti protegge dalle strade, chi ti dà il suo sound, chi ti cura la febbre, chi ti sgombra la mente. Da gennaio a dicembre sembra in cambio di niente. E così ti viene voglia di non pensare al peggio, tra consigli di un saggio sound che ti dà coraggio. Ricordi di un'infanzia che oggi puoi comprendere, non capivi il male, ti volevano proteggere. Ora sai che ti volevano proteggere. Petrus Ness.